Il Marajà era stato ripulito. Gli zingari avevano fottuto tutto. Andammo a loro con la bella mia gomò. Io ero fottuto, stavo dicendo. Mi legarono con corda e spago. Mi menarono e più mi menavano, più mi ingazzavo. Stavo dicendo andò a cercare da bravo un drago che gli fece zittire. Lo sai chi sono figlio io? Figlio di Nunzio Siriano, vice di fratello di Feliciano Siriano, nobile. Il nonno Luigi Siriano, sovrano. Meglio che iniziate a cagarvi in mano. Nicolas in un attimo venne slegato, ma i zingari dissero che non era stato nessuno di loro, che non avevano rubato, ma il nome dell'agenzia Puma era spiato. Il premio per lo sbattimento era un primo tutto l'anno, tutto pagato, nel centro della gente che contava, importante. Io e gli altri eravamo stanchi di stare con i poracci, volevamo elevarci, stare con i ricchi, provarci, non stare più a stracci. Il premio per lo sbattimento era un premio tutto l'anno, tutto pagato, nel centro della gente che contava, importante. Io e gli altri eravamo stanchi di stare con i poracci, volevamo elevarci, stare con i ricchi, provarci, non stare più a stracci. Stare con i ricchi, provarci, non stare più a stracci, non stare più a stracci. Quelli dell'agenzia del furto di ieri, due ex finanzieri, per cavare la verità da quei pensieri, gli aprimmo il culo, con l'olio e il saldatore, o White lo fece mentre si faceva cantore della sua solita canzone. We got the guns, we got the guns, motherfucker better, better run. We got the guns, we got the guns, motherfucker better, better run. Quelli dell'agenzia del furto di ieri, due ex finanzieri, per cavare la verità da quei pensieri, ti avremmo un culo con l'olio e il saldatore. O White lo fece mentre si faceva cantore della sua solita canzone. We got the guns, we got the guns, motherfucker better, better run. We got the guns, we got the guns, motherfucker better, better run. Poi chiamarono i carabinieri, passammo per giustizieri anti-racket. O White si fece pagare per la protezione del nuovo Marajà. E il primo fu nostro, già. Poi chiamarono i carabinieri, passammo per giustizieri anti-racket. O White si fece pagare per la protezione del nuovo Marajà. E il primo fu nostro, già. Il premio per lo sbattimento era un premio tutto l'anno, tutto pagato, nel centro della gente che contava, importante. Io e gli altri eravamo stanchi di stare con i poracci. Volevamo levarci, stare con i ricchi, provarci, non stare più a stracci. Il premio per lo sbattimento era un premio tutto l'anno, tutto pagato, nel centro della gente che contava, importante. Io e gli altri eravamo stanchi di stare con i poracci. Volevamo levarci, stare con i ricchi, provarci, non stare più a stracci, non stare più a stracci. Poi chiamammo i carabinieri, passavo per giustizieri anti-racket. O White si fece pagare per la protezione del nuovo Marajà. E il primo fu nostro, già. E il primo fu nostro, già. E il primo fu nostro. Yeah.